Buonasera a tutti da Web Radio Luzzi, questo è Non aprite con la persiana 1. Ti ho detto di parlare, ti sono toccato 1.6. Quanto? 6. Quanto? 6. E 1 più 6 va? 7. Brava, in matematica va bene. Conferiamo la laurea honoris causa a laurea in matematica. Questo è il gruppo dei grezzi, come avete potuto notare, tranne uno, perché Bisignano non si conta come grezzo. No, come grezzo no, ma come rozzo sì. Ospite d'onore stasera. Fatemi salutare Biagio Antonacci. Ciao Biagio Antonacci. Amanda Nox. Ciao Amanda Nox. Massimo Maneggio mi saluta. Ciao amici nuovi. Ciao. Saluto tutta la popolazione di San Sossi, 2.456 abitanti, il sindaco, la maggioranza, il consigliere d'opposizione. Sì, sono 2.455, condoglianze alla famiglia. Dunque, saluti a tutto San Sossi, dove vicino. Saluto San Sosti un po' da più da lontano, quindi saluto da Roggiano in questo caso. Saluto da Roggiano quelli di San Sosti e li invitiamo tutti qua a Luzzi. Chiaramente chi viene qua deve pagare pedaggio, una bottiglia di amaro Ramazzotto, quello che volete, insomma. Basta, va bene così. Sembra meglio l'amaro Ramazzotto che quello simpaticone in Biagio Antonacci, scusa. Che le vostre case lo abbia Biagio Antonacci. Quel ciamale è Pietzi, pietzi. Sto possendo. Ma perché mi fa girare un microfono ogni volta? È un saluto anche alla Madonna del Pettoruto, te. Perché sono già lì a San Zotto. Può fare che un canuscio San Zotto. Io a San Zotto non canuscio, ma chi bocca? Vergogna Laura. Fateci come non ti vergogna. Ora è messo in un angolino. Un sogno che sia vero, Laura, che lascio il microfono. Ecco. E come c'è? Il microfono non si può essere. Ha dato le dimissioni. Vedi chi bo. Lascia il microfono. Abbiamo qui chi ha appena visto il video di Belen. Ecco, raccontaci, com'è stato? Io più che altro di vederlo lo faccio il video di Belen. Cioè faccio un wow. È arrivato il gesto presto. Mi va di cu. Mangiaci questa lucca. Ma tu pensi che è più Belen o una certa Amanda? Vabbè, Amanda è Amanda. Amanda è lo Amanda. Lo dice la parola stessa. Lo dice. Comunque Albano ci aveva visto giusto a Sanremo. Perché? Perché? Che ha detto Albano a Sanremo? Quando ha fatto la canzone? Che cosa? No, Amanda era libera. Amanda è libera e l'apte sono già giuria. Sicuro. Dobbiamo chiedere a Giacobbo cosa ne pensa di questa. Arriviamo a un quarto d'ora di prego. Di questa cosa. No, scusate. Scusate un attimo che mi affogo. Si affoga e torna. Amanda è sempre io e Francesco che canta Amanda libera. No, Gran finale. Dobbiamo chiudere in modo circolare. Tu sei cattiva con me. Perché? Ti guarda allo specchio perché? E perché? Perché sei una zoppa. No, tu. Ma sei piano per dimmo. Sì, mi sta a corti i capelli, il cuore è già pronto con la pistola che mi spara. Poi ci potremmo stare. Ma non si può lavorare in queste condizioni. Ci potremmo stare. Sta lavorando, basta. Signore, introduzione, basta. Attenzione. Ma chi si due sciuto? È uscito fuori una K47. Una K? È che tu di K ne sai qualcosa. È una K47. Una pistola. Un Kalashnikov. E chi è? Una cosa che si mangia. Non lo so. Si fa un saluto, pellico. Fannino saluto. Buonasera. Sprecati. Diciamo da ora che è mal di gola. Ma senza piombo, pellico. Vediamo senza piombo. che ne sa, ci va senza più. Un zoom gli fanno poche parole, un zoom. Scusa. Comunque andiamo avanti. Cara Laura, cara infatti, prima in classifica, fra poco ti chiedo una cosa, chiudi e ci troviamo fra poco.